Siamo nell'Africa equatoriale, di retaggio coloniale francese. Le genti qui sono di etnia Baoulé e Agni. Un uomo di nome Grégoire è venuto qui ed entra in una stamberga, in un antro buio, nel quale giace inchiodato in ceppi, come un schiavo, un essere umano. Grégoire è venuto per liberare questo prigioniero. Si tratta di una persona genericamente considerata malata di mente. Come tale è marginata, nascosta, incatenata. Una vergogna per i suoi parenti e per tutto il villaggio. Grégoire si accinge a compiere un'arma che ha già ceduto centinaia e centinaia di volte. Che a noi possa usare il cuore di te, l'atto di liberare lo schiavo dalle sue famiglie. La morsa di ferro si allenta. Polso sinistro e libero. 8 anni dopo essere stato prigioniero. Dimostrando una grande forza d'animo, l'uomo ha l'orgoglio di rimettersi in piedi da solo. Per la prima volta dopo 8 anni trascorsi chiuso in ceppi, quest'uomo rivede la luce del sole e sta ritto in piedi sulle proprie gambe. Ma questo è un punto decisivo anche rispetto a tutte le cose della vita, un reciproco fraintendimento o reciproco. La malattia mentale esiste al di fuori della classificazione. Che peso ha la classificazione? Questa sarà l'occasione per conoscere la storia eccezionale di Grégoire, che ce ne racconterà la malattia mentale in Africa e la cura, e forse sarà anche l'occasione per riflettere sull'Africa di Grégoire e sulla nostra Africa. Una testimonianza di fronte al disagio che sia un personaggio di tempo, perché Grégoire è ma imita, cioè con un atto, basta. Lui emigra e va in Costa d'Avorio. E cosa fa? Fa il gommista, il riparatore. Non dico che cambia la ruota della macchina, lui è forte, è quasi così, ma fa il riparatore di gomme, prima come garzone e poi si mette in proprio. Poi ha, è uno capace, porta i tassi, forse fa perfino troppo, insomma ha una crisi come tutte le biografie, come dire, profonde degli abitanti, diciamo così, ha una crisi esistenziale, insomma vede la morte con l'ultimo, diciamo, dovete sapere solo l'essenziale, e diciamo si converte al cattolicesimo. Anche qui io che cosa posso fare se non una specie di traduttore di mondi, anche a rischio di fraintendimento. Gregoire legge il Vangelo come noi leggiamo le istruzioni che escono dalla letteratura, perché dica proprio la preferenza per tutti, lui sa a memoria Matteo, ero affamato, mi avete dato da mangiare, e quindi si fa un elenco di chi sono i più disgraziati, gli ultimi, perché ci mangiano, e comincia con i malati dell'ospedale, perché in Costa d'Avorio ci sono gli ospedali, però sono gli ospedali, poi bisogna, anche se uno si opera, deve portare proprio così da mangiare. Allora lui dice alla moglie, che lo sopporta da molti anni, fa un po' di più, e lui arriva e va a mangiare insieme con un gruppetto, però poi non si accontenta, ma sono gli ultimi o c'è qualche più ultimo, e scopre i carcerati, e i carceri dovunque sono terribili, ma in Africa effettivamente non hanno nemmeno un posto dove andare al gabinetto, quindi dopo che hanno fatto la mano della stanza vengono ramassare le cose, e lui dice, però dice, non sono più, incontra clochard, fosfati di vario genere, e lui dice, la prima volta paura, però dice, posso io avere paura dell'ultimo, se l'ultimo ascolto per Gesù Cristo, e comincia a prendersi cura in un modo molto molto, molto elementare. Poi scopre, come succede in alcuni luoghi, scopre il trattamento degli spostati, uso tecnicamente spostato e non malato mentale, perché avendo studiato da vicino, cioè un disturbo che voi classificate come epilessia, per alcune società è un segno di una carriera fatta, quindi non è una cosa, in altri può essere considerato un segno di presenze misteriose e negative, diciamo così, vagamente diabolico, ma non di è un termine non esatto. Tutti hanno un'idea della devianza, quindi c'è, è presente in tutti, ma che cosa è segno di possessione negativa? Che cosa invece è segno di una modificazione della coscienza riplasmabile in una credenza, diciamo, complessiva, diciamo, religiosa? Questo varia. In alcuni casi, comunque, anche per effetto di interpretazioni di sette cosiddette protestanti, ma non sono i protestanti che conoscete voi, non vi posso dire la storia religiosa in pochi secondi, che scoprono il diabolico, quindi picchiano pure, eccetera, eccetera, insomma, vengono legati agli alberi o incatenati in qualche modo ed espulsi dalla montagna come si faceva una volta da noi ai tempi. E qui dice Gregorio, più ultimo di questo, non ci sono solo i morti. E intorno a questa dimensione la cosa straordinaria e che organizza, è il caso di Gregorio, è importante perché è un africano che fa qualche cosa, nemmeno per l'adesso lavora in Benito, ma l'ha fatto in fondo una terra in cui e anche maltrattato su fatti, diciamo, di natura per un immigrante, come tale, noi li vediamo tutti uguali per me, ma non sono tutti uguali. E quindi nonostante, diciamo, questo, lui fa qualche cosa per i suoi fratelli africani. Costruisce un'associazione e lavora all'inizio a Buaké, che diciamo è una seconda città credo per abitanti, intorno si fa dare dei locali, insomma crea le condizioni per un ricovero e un'accoglienza e va e viene tra città e villaggi per, cioè lui arriva allora la scena rituale, forse la vedrete, lui arriva con tronchetto, riscatta lo spostato attaccato a un albero, perché deve parlare col capo villaggio, me lo prendo io, lo libera materialmente, no? Noi diciamo sempre bisogna liberarsi dal locale, no? Solo che là sono proprio le catene, proprio quelle leve, non quelle leve. Quindi lo scatena, lo lava, fa azioni molto semplici, con una spugna, porta abiti bianchi, che è la cosa che sono veramente sono fatte in basso, così, però nulla. Questo fatto dell'ammalato sentirsi toccato, diciamo, assolutamente molto bene. Insomma, e quindi comincia ad assemblare questa famiglia, una casa per gli ammalati senza famiglia. Così, poi dice a qualcuno, perché poi è fortunato, è fortunato. Dice a qualcuno, dice, ma come lo possiamo chiamare? Tra lì un santo, quindi scende un santo, ma già ce ne stanno tre. Dice, ma non ce n'è uno, dice, che si occupava dei malati, un prete francese, San Camillo. E lui lo chiama San Camillo. A un certo punto i camilliani dice, ma chi è questo che fa la cosa tanto l'associazione San Camillo? Sono i camilliani che vanno da lui, dice, e quindi l'aiutano, ma semplicemente attraverso un nome, non attraverso un amico, un nome, tra virgolette, quasi di tutto. Adesso io vi parlo di quello che ho visto, non vi parlo di una parte più recente, perché questa storia comincia, diciamo, le prime cose che vi ho raccontato sono gli anni 80, l'aspetto organizzativo è proprio il 1990 dell'associazione della cosa e poi la diramazione in varie parti della Costa d'Avorio segue fino anche oltre la crisi sociale, la guerra civile del 2005, quando poi ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione. E ci sono due modelli di cui io sono testimone. Quello di Buaké, che è un tipo di organizzazione, come dire, con numerosi ospiti. E quello al nord di Corvo, che è molto più piccolo, e in cui si incarna un modello, come dire, più in cui l'aspetto rituale, l'aspetto della sua presenza, la rassicurazione delle persone ha un numero, diciamo, elevato di persone che si prendono cura di. Il modello urbano, Buaké, grande città, è un modello, diciamo, che rasenta quella ospedaliero. L'altro a cui ho assistito invece è come dire, un'opera segno in cui, come si diceva proprio all'inizio, come ha detto la presidente, fa fa vedere che le cose potrebbero essere più enormemente più semplici di quanto noi possiamo immaginare. Io sono testimone, come dire, però, di i rischi di fraintendimento tra noi e loro sono molto alti, perché noi attribuiamo quello di cui abbiamo, come dire, quasi bisogno di pensare, perché in effetti molti di centri grandi assomigliano a Manfredi, non è, non li può chiamare, certo sono simpatici, si va e si viene, c'è quello alla porta, perché vedete, poi dopo vi racconto la cosa e poi vi lascio. Diciamo, ci sono questi due modelli in cui anche la presenza, come dire, proprio dell'aiuto farmacologico è diversa. Dal suo punto di vista ho avuto lunghe discussioni, con lui dice io più ne tolgo dagli altri, meglio. Allora, l'opera segno, pochi accorti, ma trattati secondo lo stile quasi rituale, potrebbe essere da stimolo, come dire, a una riflessione, a una comparazione, a uno stimolo allo Stato. Ma dovete sapere, come vedrete, che diciamo, dove gli Stati sono poveri non investono sul malattia che non si può. E quindi voi parlate di uno Stato interno, 3, si chiama 1, 4, 5. E quindi la seconda fase, modello Boaché, cioè del grande centro, è quello che caratterizza questa sua riuscita, cioè un'estensione di un trattamento e di un riguardo a più persone possibili. Corobò, invece quello piccolo, il modello piccolo, si associava anche a delle fattorie, perché la mia storia è cominciata così. E chiudo con un episodio reale, diciamo così. Io tornavo, diciamo, dal nord, c'era stata la guerra del Corobò, e voi avete visto uno zaino, quando vado a nord compro tutte le cose di cotone e non avevo dove mettere, quindi avevo uno zaino, non mi facevo la barba di molto tempo, ero molto magro, capelli lunghi, insomma avevo uno spettro, e tenevo questo zaino con vari sacchetti di plastica attaccati. Gregoire dice, ma io dove sto? C'era la guerra, non c'erano alberghi. Dice, devi dormire a casa mia. Cioè a casa mia, dove sto io e con i malati guariti, quelli che stanno per lasciare il centro per andare nelle fattorie. Dice, io però ti do la chiave e tu ti chiudi dentro. E dice, Gregoire, ma sono guariti? Sì, sicuro. E lui dice, si sei ride, perché lui guida, parla, ogni tanto finisce nei fossi, non dimenticate passare, per carità. Lui dice, non ti preoccupare, dice, ma comunque tu ti dici. Dopodiché arrivo, pensate come stavo combinando, mi ero scordato, lui mi presenta ai guariti e c'era un pezzo d'uno che non finiva a 2 metri, con una mano mi avrebbe soffocato subito. Che appena mi vede fanno tutti quanti un passo indietro, nessuno mi vuole stringere la mano. E i guariti, visto sul passo di lui tutto. Esattamente. Prendo la chiave e me ne vado, la chiudo dentro. Però c'era un piccolo specchio, ho capito che è successo. Ma lui la mattina ha detto, i miei amici si sono spaventati, si sono anche un po' ingelositi, dice, non ti passiamo noi. Motivi con i pazzi bianchi. Thank you. Pisella. C'è questo studio in Lorcano, ma c'è anche suo figlio che lo vede, io e là. Deve essere da quando è vita. È rimasto così per 8 anni. E se non lo devi liberarsi, là che vale se ci scappa lì. Se non l'avessimo liberato sarebbe rimasto lì. Se chi ha le più gire non le può, sei infatti. Quella che è rimasta più tempo nel legno è stata una donna. La Petra Assisa, meno solo scusa. 36 anni, sì. Allora, le scritte la porta, la famiglia. Ho spiegato. Non mi le domanda la sala. Che non gli dirò, diciamo. Ma se chi è importante, è scritto a volte che è importante, le malate, le vado a soigner, mi ha preso, sì, sì. Sa maison. Che ha spiegato che il malato che si sente se è stabilito avrebbe dovuto riprenderlo a casa. E se con le domande aussi, il doit chaque fois venir au moins lui rendre visite dans le centre. Il ne faudrait pas qu'il se sente abandonné. Parce que nous, quel que soit ce qu'on peut faire, on ne peut jamais remplacer la famille. Abbiamo chiesto alla famiglia di venirlo a trovare il malato finché non si sentisse abbandonato. Perché noi sicuramente ça, c'est les premières conditions qu'on essaie de dire avant de prendre des malades. C'est la prima condition de l'équipe. Et je dis, ça se passe très bien, les malades tournent bien dans leur village et ils sont bien acceptés parce que déjà la famille est préparée avant qu'ils ne retournent. Là, pour moi, il y a deux choses. Il pleure de joie, mais aussi de crainte. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire de son père là-bas. Dans le sol. Or, c'est la chaîne qu'ils ont traversée dans le bout avait enterré la chaîne dans le trou. Donc la fille, quand elle a appris que je revenais pour libérer son père, elle était tellement contente, elle a commencé à creuser le trou pour déterrer la chaîne, mais elle n'arrivait pas. Donc quand j'ai demandé est-ce qu'elle a des enfants, je lui ai dit, c'est sa fille qui était en train de creuser le trou pour déterrer sa chaîne. Et la fille, elle avait plus de 10 ans, 12 ans, elle n'allait pas aussi à l'école. Donc j'ai pris la fille et le père. La fille est présentement chez Christian, elle a fait 3 ans d'atelier où elle est devenue un bouquin, una donna ragazza, con delle catene, anche un tronco d'albero, c'è stata violetta, cercava di... Celui-là, c'était un patient qu'on a libéré et on lui posait la question, vous allez voir comment il était quand on l'a libéré. Non, ce sont des images qui sont... C'est fou, on ne peut pas imaginer. Au troisième millénaire. Nous avons eu des malades, nous avons eu des gens qui, à force d'entendre la voix, poussés par la voix, ils ont coupé et égorgé un jeune qui a égorgé son père. Quand les gens ont demandé. Lève le morceau là. Ça va coincer dessus. Maintenant tu es libre. Tu es content d'être libre. Bien, on peut venir en dire fait. Ça me révolte. Ça me révolte. On ne peut pas continuer à voir ces scènes. Ils n'ont pas cherché à être malades. Ils sont nés comme tout homme. Et ils ont besoin de vivre comme tout homme.